Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti, cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di vino, andremo un po' così a scoprire. Ci sono in questo paese delle aree felici, delle isole felici, dove diciamo le denominazioni tirano e come. Ci sono altre aree che ne risentono. Andiamo a vedere appunto quali sono, andremo a scoprire anche il perché. Si tratta del prezzo in questa crisi economica molto forte, oppure si tratta di qualità, o si tratta di politiche d'immagine, o di vini il cui gusto sta incontrando molto più di altri. Questi sono un po' gli interrogativi che oggi poniamo sia ai nostri ospiti che a voi radioascoltatori. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, iniziamo questo viaggio nel mondo del vino con un numerologo, chiamiamolo così, con Marco Baccaglio. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti voi. Blog I Numeri del Vino, che sicuramente è un grande esperto che sempre ci dà così quello che succede dal punto di vista numerologico nel mondo appunto dei vini italiani e soprattutto anche sui dati che riguardano l'export. Allora Marco, volevo chiederti, ci sono aree felici e meno felici del vino italiano, e il vino italiano ne risente molto in questo momento di questa crisi, oppure così la crisi è superata appunto dai bianchi, dai rossi e dalle bollicine italiane? Ma dunque, i dati delle esportazioni sono molto positivi, e sono così tanto positivi che gli operatori del settore e anche noi che guardiamo i numeri ci domandiamo come mai siano così buoni. Se voi guardate i dati a fine di ottobre, che sono gli ultimi dati ufficiali, vi trovate con un valore delle esportazioni che cresce di circa il 15% sui 12 mesi, di circa il 13% sui primi 10 mesi dell'anno, trainato in maniera particolare dagli spumanti e dai vini sfusi che fanno oltre più 20, ma anche i vini imbottigliati, che sono un po' la spina dorsale delle esportazioni italiane, sono sul piede del 10-11% di crescita. Come mai succede questo? Sicuramente negli ultimi mesi si sta instaurando un fattore di cambio, cioè la svalutazione dell'euro rispetto alle altre valute rende il prodotto italiano ancora più appetibile. Una seconda giustificazione che può essere valida è che con la OCM vino, cioè con la politica europea di ristrutturare il settore vinicolo, si sono liberati fondi abbastanza significativi, parliamo nell'ordine di decine di milioni di euro per la promozione del prodotto italiano, e quindi questo potrebbe aver aiutato. Terza cosa, il vino italiano, dobbiamo ricordarci, è molto famoso ed è molto sviluppato in mercati come gli Stati Uniti, la Germania, il Canada, che sono tra i primi quattro mercati del vino imbottigliato, che sono economie che stanno andando molto bene. Cioè noi parliamo dall'Italia, dove abbiamo un'economia in recessione, mentre questi sono paesi dove l'economia cresce del 2-3%, per cui il nostro punto di vista è anche un pochino sfocato dal fatto che il nostro punto di partenza o la nostra vita di tutti i giorni è in un'economia che non funziona bene. Ecco, il mercato interno, i consumi sul mercato interno sono calanti? Sì, i consumi sul mercato interno proprio quest'oggi, ieri sono stati dati alcuni dati da Ismea Nielsen, le vendite al dettaglio di vino italiano sono calate nei primi 11 mesi dell'anno dell'1%, e le vendite di spumante sono cresciute del 2%, quindi il mercato italiano è ancora un mercato che chiaramente risente, come anche quello francese, quello spagnolo, cioè i grandi mercati storici del vino risentono anche di un cambiamento delle abitudini di consumo, no? Dove le generazioni nuove considerano il vino come un prodotto, diciamo così, più voluttuario, mentre invece le vecchie generazioni, che piano piano vengono sostituite, avevano una tipologia di consumo differente, quindi i consumi in volume sono significativamente calanti. Si parla quest'anno di un calo al volume di circa il 7% dei consumi di vino, quindi il mercato italiano globale del vino sta rapidamente viaggiando verso livelli di consumo totale che vanno intorno ai 20 milioni di ettolitri, quindi ampiamente superato da altri mercati, e E invece il valore tiene perché chiaramente la qualità media dei vini che vengono bevuti migliora. Bene, grazie a Marco Baccaglio di questo, diciamo, quadro che ci ha fatto. E ora andiamo in Valpolicella, andiamo in Valpolicella da Emilio Pedron, che è presidente del consorzio della Valpolicella, perché recentemente ha dato dei dati davvero molto ma molto positivi. Pedron, Amarone ripasso, quindi col vento in poppa? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, da una decina d'anni il Amarone, la Valpolicella di Passo, ha avuto una straordinaria crescita, che basti dire che anche negli anni della grande crisi del vino italiano, in cui in controtendenza anche tutti i grandi vini italiani, compreso Piemonte e Italia, l'Amarone ha continuato a crescere. In 10 anni siamo passati da 5 a 12 milioni di bottiglie. Ecco, questo, diciamo, passaggio così enorme ha portato delle conseguenze sulla qualità? Ma direi che questa grande crescita è stato frutto di una straordinaria riqualificazione nel territorio. Ci sono stati vigneti nuovi, cantine rinnovate, fruttai moderni. Quindi, in altre parole, non c'è stata solo una crescita di numeri, ma tutto questo è stato accompagnato da una crescita qualitativa. Ecco, non per questo non voglio dire che non manchino le critiche di chi dice che se la crescita fosse stata un attimino più cauta o inferiore, probabilmente la qualità sarebbe stata ancora superiore. Però io mi sento di dire che il territorio nel suo complesso è cresciuto in qualità e si è molto riqualificato proprio in base anche alla ricchezza e alla marginalità che l'Amarone ha portato. Senta Pedron, e per il futuro, ecco, perché diciamo oggi tutto bene, va bene, madama la Marchesa. Il futuro come lo prevedete? Ma questa è la nostra preoccupazione, cioè il successo ce l'abbiamo, il tema oggi è di mantenerlo a livello in cui siamo. Per cui, detto con questo, noi siamo molto impegnati anzitutto a controllare la qualità in maniera molto, molto puntuale, molto tassativa, controllando dai vigneti la corrispondenza dei vigneti disciplinari, l'uva nei fruttai, la vendemmia, fino al prodotto finito con delle degustazioni e delle analisi molto, molto puntuali. Non basta, abbiamo da circa 2 anni c'è il blocco degli impianti, quindi più di tanto non può, la quantità totale non può più crescere, non basta ancora, ma abbiamo ridotto la cernita, la percentuale dell'uva che viene scelta per fare Amarone dal massimo del disciplinare di 60 a 50, probabilmente al 50%, probabilmente per l'anno prossimo pensiamo già di passare dal 50 al 45. In altre parole, noi siamo ben consci che il successo oggi ce l'abbiamo, quindi il nostro tema è di mantenercelo e farlo durare il più lungo possibile. Bene, grazie a Emilio Pedron, lo ripeto, presidente del consorzio della Valpolicella, nonché amministratore delegato di un'azienda storica come Bertani. Numero verde 800 24 00 24, messaggi e sms 349 238 6666. Abbiamo sentito finora note veramente molto ma molto positive, non so se sarà così per tutta la trasmissione. Un radioascoltatore, Marco Giannoni dalla provincia di Arezzo. Buongiorno Giannoni. Buongiorno. Sono presidente del consorzio Vini di Cortona. Bene. Innanzitutto noi come produttori portiamo avanti la qualità e è stata vincente. Il problema, noi come Cortona continuiamo a crescere, è una piccola DOC che continua a crescere, il problema è che in Italia non pagano e quindi non si vende più in Italia. Non pagano chi? Scusi, non pagano chi è che non paga? Non pagano gli acquirenti, i nostri clienti che comprano i vini. Cioè non pagano al prezzo che voi vorreste? No, non ci pagano le fatture, le fatture. Il problema non è vendere, il problema è riscuotere. Ho capito. Quindi, primo. Secondo, le istituzioni. Io ho saputo ieri sera che noi facciamo grandi sforzi per fare produzione. Un mio collega siciliano mi diceva: sì, ma lo sai che in Sicilia hanno esteso la DOC a tutta la Sicilia e si può imbottigliare fuori del territorio? Cioè, se le istituzioni non capiscono che si devono confrontare con gli agricoltori, con chi produce e poi legiferare, non che fanno le leggi, distruggono le leggi a testa loro e distruggono il lavoro di generazioni. ecco, di generazione. Giannoni, guardi, come si dice il calcio sui maccheroni, ho con noi Antonio Rallo, presidente della Sovini di Sicilia. Buongiorno Rallo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha sentito cosa diceva il suo collega di questo consorzio dei vini di Cortona? Sì, ho sentito, ho ascoltato le sue parole, interessante. Quindi il discorso che si può imbottigliare fuori, come dicevo in Sicilia, è vero questo? Sì, è vero, si potrà imbottigliare la DOC Sicilia al di fuori dell'isola, e purtroppo chiaramente dobbiamo rispettare quelli che sono i regolamenti comunitari, non siamo riusciti a raccogliere la superficie per poter determinare l'imbottigliamento in zona e quindi ci siamo dovuti accontentare di una maggiore tutela del nostro marchio, del nostro brand più importante che è Sicilia, ma rinunziare all'imbottigliamento in zona. Ma questo sicuramente non pregiudica il risultato importantissimo della maggiore tutela del brand Sicilia, quindi sicuramente per i siciliani sarà un grandissimo vantaggio poter avere un maggiore controllo attraverso gli strumenti della DOC e della propria produzione. Ecco, a lei invece volevo chiedere questo, diciamo i rumors dicono i vini siciliani dopo grandi anni di boom in questo momento diciamo che non sono, come posso dire, non sono più sulla cresta dell'onda. Volevo chiederle se questo è confermato oppure se diciamo è una leggenda metropolitana. Beh, è chiaro che l'invidia a volte fa tanta strada, no? Io le posso dare subito dei numeri. A Sovini è un'associazione con più di 65 aziende, l'80% dell'imbottigliato in valore in Sicilia, il 60% lo fa all'estero, quindi sicuramente un osservatorio importante per la produzione siciliana. Le faccio alcuni esempi da soci che hanno piccole aziende e da soci che hanno aziende un po' più grandi. Arianna Chipinti, 10 ettari a Vittoria, la sua azienda è nata nel momento della crisi economica, vende le sue bottiglie vanno a Ruba, nessun problema. Cottanera sull'Etna, 300.000 bottiglie, le vende felicemente tutte, così come l'Avide a Vittoria, come Caruso e Vinini ha fatto la doppia cifra quest'anno come crescita. Rapidalà va bene, prendiamo le aziende storiche siciliane, Cusumano, Donna Fugata, Ferriato, Planeta, Tascala Almerita, sono andate bene nel 2011, l'estero le ha aiutato sicuramente tanto, Sette Soli è al record con 30 milioni di bottiglie vendute nel 2011, chi ha un progetto, chi lavora, riesce a ottenere i suoi risultati. È chiaro che spesso la dimensione, quello di essere un po' piccoli, quelli magari di non avere una denominazione forte, crea qualche problema ai più piccoli, ai meno strutturati, a quelli che hanno dei brand ancora non molto conosciuti. Ci ha dato un quadro molto ma molto esauriente. Grazie, grazie Rallo. Sentiamo Francesco da Latina, un radioascoltatore. Allora, buongiorno. Prego. Complimenti come sempre. Io sono nel settore, sono ristoratore su Latina. Volevo dire che in questo momento c'è una razionalizzazione sui costi del consumo, nel senso che ecco un esempio dell'intervento, la ripassa viene più apprezzata, viene più consumata perché comunque in questo momento non è un amarone ma è quasi un amarone, costa meno dell'amarone. Poi naturalmente ci sono anche gli estremi, naturalmente una ripassa di Dal Forno o di Allegrini è comunque differente da una qualsiasi altra ripassa, con costi che comunque raggiungono quelli di un amarone da scaffale di un supermercato. Le bollicine, si punta la bollicina italiana tantissimo rosé quest'anno come consumi, perché comunque non è uno champagne, non costa come uno champagne, però è dallo stesso piacere dello champagne. Per quanto riguarda invece il precedente intervento, volevo dire una cosa sul fatto del consumo dei vini in Sicilia. Sì, effettivamente sono diminuiti, ma comunque siamo nel mondo del commercio, esiste anche il fattore moda. Planeta, che dobbiamo ringraziare perché comunque è stata forse la massima espressione della Sicilia dal punto di vista del consumo moda del vino, ha fatto il suo tempo, poi naturalmente ci sono dei picchi di consumo e di richiesta, se si propone in questo momento un Nero d'Avola, devo dire che comunque il cliente dice no, Nero d'Avola, come per dire basta, ne abbiamo bevuti fin troppo di Nero d'Avola. Grazie Francesco, se no le portiamo via tempo a tutti. Lei ci ha dato anche lei un quadro molto esauriente di cosa succede nella ristorazione. Ora abbiamo con noi Alessandro Regoli, che è il fondatore e direttore di Wine News e sicuramente un grande osservatorio del mondo del vino. Sentiamo Alessandro, vino italiano in crisi, si consuma meno? Bah, direi di no, David. Noi abbiamo fatto proprio di recente un'inchiesta. Nel 2011, grazie soprattutto chiaramente all'export, il 93% delle cantine ha aumentato il suo fatturato. Chiaramente per il 53%, lo dicono però le 25 cantine tra le più importanti d'Italia, che insieme fatturano 1,8 miliardi di euro. Quindi diciamo, non è un panel scientifico, però... cioè è un dato abbastanza importante. Chiaramente, che aziende sono? Sono marchi già affermati sui principali mercati esteri e quindi sono in grado in qualche modo di mordere anche quelli nuovi e quindi hanno reti commerciali solide, articolati, sono capaci di alimentare quindi l'export, che si conferma chiaramente il principale volano di sviluppo di tutte le etichette tricolori. Quindi i mercati esteri più importanti li ha già detti Boccaglio, insomma, quindi sono gli Stati Uniti, tutta l'Asia, l'Europa, il Sud America, però anche i mercati emergenti stanno dando tanta soddisfazione. Penso che non sia più un discorso nemmeno di territori, ma penso sia un discorso sempre di più di brand e di legati addirittura anche a singoli vini, successo o meno all'interno del mercato. Quindi anche nei territori importanti del mondo del vino italiano ci sono dei marchi forti che quindi vendono tutti i suoi vini e quindi addirittura devono fare delle assegnazioni proprio bottiglia per bottiglia, e invece ci sono sempre nello stesso territorio delle aziende che magari hanno difficoltà a vendere le loro bottiglie e abbassano magari pure i prezzi, creando chiaramente problemi a quel territorio e alle altre aziende. Infatti c'è un radioascoltatore che mi scrive un SMS che dice: fatturato aumentato per quantità o per valore? E questo è un fatto molto importante, sicuramente. È aumentato, nel nostro caso è aumentato chiaramente sul valore, insomma. Bene. Quindi bene. Non è così, però ripeto, le realtà che noi abbiamo sentito non riguardano tutto il complesso del mondo vitivinicolo, insomma, del nostro paese, quindi sicuramente ci sono anche aziende che stanno incontrando sicuramente dei problemi. Chiaramente non sono i problemi che però ci sono anche in altri settori dove il mercato magari il loro mercato è crollato, certo, in altri settori, quindi considerando il tempo di crisi che stiamo vivendo probabilmente ci sono delle note sicuramente anche abbastanza positive. Lo vediamo anche sugli sfusi che per esempio stanno riprendendo quota, insomma. Ci sono l'Amarone, lo diceva prima Pedron, anche sul Brunello le cose stanno andando discretamente, come del resto anche sul Barolo, ma anche su territori anche meno importanti, insomma. Gli sfusi stanno per esempio riprendendo, che sono un termometro importante per, certo, dire anche come sta andando il settore. Grazie Alessandro Regoli. Sentiamo un radioascoltatore, Pietro dalla provincia di Bari. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Io mi volevo associare al mio collega che ha parlato prima. Io sono di Trani, della città del Moscato. Sì. Praticamente noi finora facevamo tanto di quel vino, tanto di quel Moscato, ma non veniva mai valorizzato come si doveva valorizzare. E dove finiva il vostro Moscato? Dove finiva? In, sì, tutte le città italiane c'è del Moscato di Trani, come Trani, appena si arriva a Trani è scritto Trani città. Sì, sì, no, Moscato. Certo, ma lei diceva che ne producevate tanto, quindi lo vendevate anche, non c'erano problemi, insomma. Lo vendevamo, ma ora se ne produce tanto, ma non se ne vende per niente. Ah, ho capito. Quando qualche volta che sono venuto da paesi dei Misopri oppure al nord Italia, ho visto le bottiglie di Trani Moscato, ma non erano dalla città di Trani Moscato. Bene, io ne vedo sempre, ne vedo poco di Moscato di Trani, anche se è un ottimo prodotto in giro. Comunque, bene, ora abbiamo due personaggi importanti del mondo del vino, importanti perché sicuramente da anni sono dei grandi, diciamo, grandi protagonisti. Io voglio proprio chiederlo a loro. Abbiamo Ezio Rivella, che è presidente del consorzio del Brunello di Montalcino, e Sandro Boscaini, che è presidente della Masi. Allora, cominciamo da Rivella. Ezio, ma è proprio un'isola felice il vino in questo momento? Direi di sì, perché con tutto quello che si sente in giro, soprattutto alcuni vini hanno un periodo molto favorevole. Brunello ha aumentato nell'ultimo anno 1 milione di bottiglie, cioè siamo passati da 8 a 9 milioni e passa. Quindi questo, non so, sarà dovuto alla fortuna, sarà dovuto alla buona qualità, all'impegno dei produttori a fare buoni vini. Come lei sa, i produttori di Montalcino sono divisi su tutto, ma su una cosa sono uniti, che devono fare dei vini buoni, e pare che riescano, li vendono anche a prezzi giusti, e il trend non si è per niente fermato, anzi progredisce. Quindi adesso abbiamo un'altra annata buona, il 2007, che presenteremo fra 20 giorni, e siamo ottimisti. Boscaini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Sandro. Io ti chiedo una cosa. Ho sentito prima il presidente del consorzio dei vini di Cortona che diceva sì, si vende ma non si incassa. Ma è vero, il vero problema oggi del vino è questo? Beh, è uno dei problemi del vino in Italia. All'estero devo dire non mi risulta che ci siano problemi di particolare entità o di grandissima differenza rispetto al passato. In Italia obiettivamente, specialmente per chi vende come noi solamente a una distribuzione qualificata, quasi sempre rappresentata da bottiglierie individuali e da ristoranti, effettivamente la difficoltà del credito c'è. È una difficoltà del credito che risiede poi anche in una difficoltà di business, cioè sì, effettivamente nei ristoranti in particolare c'è meno lavoro e c'è meno bottiglia importante che va venduta. Bisogna stare un po' attenti, bisogna mantenersi un po' legati, diciamo, con la fiducia alla nostra clientela. Ecco, dopo con te torneremo sulla Marone. Sentiamo Carlo dalla provincia di Brescia. Buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Sì, io sono un ex produttore di vino, oggi direttore di un consorzio di tutela di un prodotto che sta andando molto bene, che è il consorzio di tutela Lugana, Lago di Garda, Sirmione e dentroterra gardesano, con un trend estremamente positivo sia in qualità di quantità che in quantità di fatturato. Il Lugana oggi è arrivato oltre 10 milioni di bottiglie, quindi dei numeri abbastanza interessanti, con oltre il 50% di export, comunità europea e anche extra CE. Quindi bene, in questo momento così di che si vede tutto nero, sentire queste informazioni e sentire queste risposte veramente fa molto, ma molto piacere. Insomma, il vino salverà l'Italia. Ma sentiamo Antonio da Bari, un altro radioascoltatore. Buongiorno Antonio. Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda. Se per aumentare i consumi del vino è possibile togliere l'alcol? Perché è quello che fa male al fegato. Ma guardi, abbiamo fatto una trasmissione su questo argomento, quindi sulla dealcolizzazione anche in Italia dei vini. Quindi è un argomento molto lungo sulle tecniche e anche sui risultati. Che dirle, non credo che si risolva, secondo me, il problema della salute togliendo un grado di alcol al vino. Certo, può servire a qualcosa, ma non credo che possa risolvere un problema salutistico per chi ha già dei problemi, perché il problema di fondo è questo: chi ha già dei problemi li aumenta sicuramente al fegato o ad altro, ma una persona sana, diciamo, nei limiti che sono stati dati ormai dalla scienza, si può benissimo bere. Ricordo il numero verde 800 24 0024. Torno a Sandro Boscaini. Boscaini, ma c'è un vero e proprio boom da anni della Marone. Diciamo che da 15 anni fa c'è stata veramente una crescita esponenziale. Da che cosa è di peso questo? Beh, io credo che l'Amarone obiettivamente oggi sia il vino più di moda e ha le sue ragioni per esserlo. È un vino che assomma in sé tutto quello che l'immaginario comune si aspetta oggi, in un momento in cui il vino è lusso, accessibile, si aspetta dal vino. Si aspetta non solo una qualità, ma una qualità attuale, moderna, cioè frutto nel vino, non solo alcol, importanza sia nel vino in sé che nella veste, si aspetta una territorialità molto dichiarata, e non c'è dubbio, si aspetta delle uve autoctone e si aspetta una storia, un romanzo, si aspetta di poter raccontare qualcosa. In effetti è questo che mi avvince quando io vado a presentare o sento parlare di Amarone, perché assieme all'Amarone ci si racconta tante cose che riguardano il passato, che riguardano il presente, che riguardano quando eravamo poveri, quando eravamo ricchi, ma addirittura quando eravamo un impero, perché risale addirittura al tempo dei Romani. Allora ci sono tutti gli ingredienti per poter dire: io non bevo qua solo un bicchiere di vino, ma bevo un lusso. Ed è qui che io vorrei spendere una parola con i miei amici produttori. È vero, noi andiamo molto bene oggi con l'Amarone, ma stiamo attenti, non dobbiamo banalizzarlo e farlo diventare solo un prodotto di economia e solo un prodotto di consumo. Dobbiamo mantenere quel mito che è alla base del successo dell'Amarone. Bene, grazie a Sandro Boscaini. Sentiamo Gabriele dalla provincia di Rimini. Buongiorno Gabriele. Sì, buongiorno a tutti voi. Una informazione più che altro, se possibile. Ho sentito riguardo ai vini comuni, quindi non vini speciali, vini DOC, ma ai vini comuni, che ci sarà un aumento molto molto forte. Volevo sapere se siete al corrente e la giustificazione, se siete in grado di... Ma aumento in che senso? Di prezzo, di quantità? Il mercato che fa il prezzo, non è che sicuramente saranno delle imposizioni. Si beve sempre più vino, chiamiamolo comune, quindi non di denominazione, probabilmente perché la crisi porta anche questo. Non tutti possono consumare il Brunello e l'Amarone, perché insomma al ristorante, con i ricarichi dei ristoranti di cui abbiamo già ben discusso, insomma c'è un certo prezzo da pagare che non è da tutti, quindi sicuramente qualcuno dovrà ricorrere anche ai vini comuni per forza se vuole bere vino. Ezio Rivella, abbiamo sentito molto parlare di moda, cioè i vini che in certi momenti vanno di moda, ma il Brunello è ancora di moda? Il Brunello è ancora di moda. Il Brunello è un vino recente, insomma, è venuto di moda negli anni 90, 95. E quindi c'è stata una crescita continua, nonostante qualche episodio negativo, non ha mai smesso di crescere. Questo valore immaginario del vino, cui faceva accenno Sandro Boscaini, è che è sempre cresciuto e non è mai stato scalfito più di tanto da questi attacchi, da queste operazioni negative. Quindi il Brunello sta andando, ha preso, diciamo così, la preeminenza tra i vini toscani, insomma, e quindi assieme al Barolo e assieme all'Amarone è il vino di prestigio, insomma, che va di più nel mondo. Ecco, adesso ti leggo un SMS che giunge a fagiolo anche questo. Ci sono pochi vini che mi dicono qualcosa del territorio, molti che parlano dell'enologo. Per questo fatico a comprare toscani e veneti. Ah, queste sono le opinioni dei blogger sui quali è inutile disquisire, insomma. Ognuno ha le sue idee, certo, l'enologo ha perso, credo, abbastanza di importanza, il ruolo dell'enologo è sempre importante, ma non è più che si cita l'enologo prima del vino, ormai le marche si affermano per la loro identità e in secondo piano mettono l'enologo anche. Insomma, però. Sì, tu hai perfettamente ragione, però abbiamo vissuto un decennio in cui il nome dell'enologo faceva agio sul marchio dell'azienda. Esagerato. Quindi, era esagerato, quindi si parlava di stelle attribuite agli enologi e non al marchio d'azienda. Questo è successo. Grazie Ezio Rivella. Sentiamo Riccardo dalla provincia di Bari. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Senta, un'informazione, volevo sapere, siccome mi è capitato di andare nei discount e acquistare dei vini DOCG, sa benissimo che il DOCG insomma è un po' costoso come vino. Sì. E invece l'ho trovato a un prezzo di 2,99. Beh, dipende da quale DOCG, cioè sono tanti vini DOCG, non è che ci sono Montalcino, vini così. Sinceramente, quanto l'ha trovato? 2? e 99. È peccato che non ci sia più, abbiamo lasciato Rivella, e se no, visto che ha nominato il Montalcino, crede, avremmo chiesto lui. Mi sembra davvero... Ah, c'è ancora Rivella, eccolo, sentiamo. Sì. Rivella, ha sentito 2,95 sì, di OCG Brunello? No, Brunello no, penso che si riferisca al Rosso di Montalcino. Il Rosso di Montalcino, il quale nel periodo, diciamo, più profondo della crisi, 2 anni fa, ha avuto un momento di, per cui è stato esitato anche sì ai 2,5-3 euro a bottiglia, insomma, per cui non è escluso che qualcosa si trovi ancora, ma è prontamente risalito, non è regola. Bene, esaurito Riccardo, esaurita Suariente, la risposta di Rivella? Una bottiglia d'OCG, dare un d'OCG a un costo di 2,99, un Brunello o, ma è sicuro, o altre marche, mi scusi, è sicuro che fosse Brunello, non Rosso di Montalcino? Adesso non ricordo. C'è una differenza enorme. Però si può dare un DOCG? Eccoci di nuovo a parlare di vino. Abbiamo sentito 2,99 euro. È possibile? Sicuramente vedo anche sul mio sito www.gastronauta.it alcune segnalazioni di radioascoltatori che ci segnalano veramente dei vini a dei prezzi, direi, molto preoccupanti. Comunque continuiamo. Sentiamo Mauro dalla provincia di Verona, un altro radioascoltatore. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. Stavo ascoltando la trasmissione. Sì. Non c'entra molto forse con quello che state, discutendo. Non so se lei conosce un vitigno che si chiama Clinto. Sì, e come non si fa a conoscere la storia? Chi conosce la storia del vino è sicuramente il Veneto, il Clinto non può non conoscerlo. Però... perché mi dicono che non è commercializzabile? Perché ha delle norme molto particolari sulla gradazione d'altro e anche sul discorso del vitigno, quindi per questo che non è commercializzabile. Però è un vino che viene nei retrobottega delle osterie, magari si trova ancora, e quindi anche questo discorso del proibito forse ne fa anche un qualcosa di divertente. Sentiamo bene, allora ora abbiamo con noi un'altra Isola Felice. Diciamo che tutte sono isole felici, io veramente... lo ripeto, sono molto felice anch'io, ho fatto questo gioco di parole, di sentire tutto va bene Madama la Marchesa. Buongiorno a Gianluca Bisol, produttore di Prosecco, buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Allora, tu hai dato una previsione, mi sembra, di bottiglie nei prossimi anni spaventosa di Prosecco. Ma guarda, ormai sono 25 anni che lavoro in questo mondo del Prosecco ed è un settore che ha visto un grande successo continuo, ma a dispetto di tutte le previsioni, perché ricordo che quando 25 anni fa sono entrato in azienda mi dissero: guarda, ormai sono 10 anni che il Prosecco ha successo, non crediamo durerà ancora tantissimo, perché come tutti i vini ha una tendenza, una moda, e poi ci sarà un altro vino che lo sostituirà. Ebbene, io ho visto da allora solamente successi crescenti ed esponenziali, per cui il trend di crescita che abbiamo analizzato degli ultimi 40 anni, che corrisponde a un 9,6% di crescita annua, se mai dovesse ripetersi negli anni a venire, davvero saranno numeri importanti sia in termini economici che di occupazione. Senti Gianluca, poi torneremo sulla qualità appunto di questa crescita, ma volere intervenire Alessandro Regoli mi sembra sui prezzi, quindi prego Regoli. Io sono un po' un maniaco nella scelta nelle enoteche, negli autogrill, mi guardo sempre i prezzi anche dei grandi vini. È vero che ogni tanto dei prezzi più bassi esistono, ci sono anche in tutti i supermercati europei, eccetera. Però sicuramente non si può nemmeno fare cattiva comunicazione e cattiva informazione. Dire che si trova un Brunello a 2,99 la vedo impossibile. Anch'io. Come vedo impossibile che si tratti anche di Rosso di Montalcino. Si può trovare dei vini di altro genere che magari possono essere, come dire, dell'IGT Toscana, magari in bottiglia a Montalcino. Come del resto non troviamo né Sagrantini né Baroli e né Amaroni a quelle Alessandro, ma si sentiva non essere corretti in questo, perché no. Se no si rischia di fare molta confusione e sì, questo sì, non è bello. Si sentiva che era molto confuso il radioascoltatore e non sapeva distinguere tra DOCG, tra il discorso del rosso e del brunello, quindi, però purtroppo io non gli posso impedire di intervenire e quindi l'ho fatto intervenire, ma si è capito che diciamo smentiva se stesso, quindi lasciamo per fortuna che c'era Rivella che ha potuto controbattere questa domanda. Ora abbiamo parlato di grandi vini, ma ne mancava uno, diciamo, ne mancavano anche altri, però ne mancava uno in particolare che delle bandiere italiane ed è il Barolo. Abbiamo con noi Pietro Ratti, che è presidente del Consorzio di tutela del Barolo Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, e chiedo a lui: tutto va bene, Ratti? Tutto va bene anche da noi? Sì, va bene, il Barolo va bene, anche noi abbiamo dei dati positivi. Abbiamo visto gli ultimi imbottigliamenti di quest'anno, diciamo 2011 rispetto a 2010 siamo ancora cresciuti anche noi del 10%, quindi Barolo e Barbaresco vanno bene. Le altre denominazioni che noi rappresentiamo 11 denominazioni, quindi non solamente Barolo e Barbaresco, e le altre denominazioni vanno comunque abbastanza bene. Senta, ma anche i pagamenti, perché abbiamo sentito che sono la cosa negativa di questa realtà positiva, cioè i pagamenti che sono così molto difficoltosi, come ci ha detto il presidente del Consorzio dei Vini di Cortona. Cioè i pagamenti nel senso come delle vendite del vino in questo senso? Sì, sì, certo. O come valore dell'uva, perché il valore dell'uva è cresciuto, lo sappiamo. No, come pagamento delle bottiglie. I pagamenti sì, sicuramente sono rallentati, questo è sicuro. Per contro, sì, poi dipende dalle zone, da dove. Purtroppo non abbiamo una banca dati, forse questo sarebbe opportuno tutti insieme metterla a farla, no? Di un po' di una banca dati per sapere la solvibilità dei nostri clienti. Beh, rimanga con noi, Ratti. Sentiamo Luca da Pistoia, che mi sembra che abbia qualcosa da dire interessante. Buongiorno, Luca. Buongiorno. Senta, io le confermo che, ad esempio, al supermercato Esselunga, che ha una grande varietà di vini, si trovano anche a 2,90, 2,80 dei rossi Montalcino d'OCG, con delle offerte, chiaramente, non sempre. Ci sono dei periodi che fanno delle offerte. E infatti la domanda è se magari si chiama Rossi Montalcino e viene imbottigliato, non lo so, vicino a me, a Quarrata, se comunque è Rossi Montalcino oppure no. Luca, mi conferma, allora, Esselunga di dove? Pistoia. Bene, grazie Luca da Pistoia. Ebbene, dobbiamo dire che ci sono anche delle offerte speciali molte volte, sia di enoteche sia soprattutto di supermercati, quindi dobbiamo prendere in considerazione anche questo, però ci specifica che è rosso e non è brunello. Bene, voglio sentire anche Alessandro da Napoli. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, una domanda facile praticamente. Come viene considerato l'aglianico campano nel panorama nazionale? Bene, se vuol sapere il mio giudizio, io amo molto l'aglianico campano e anche quello basilisco, quindi le amo, quello del Vulture, le amo tutte e due molto, secondo me sono grandissimi vini, quindi sono grandissimi rossi e è giusto che siano messi tra i grandi rossi italiani, devono avere questo posto per forza perché sono veramente dei grandi vini. Beh, anche qui ci sono le eccezioni, c'è chi lo produce meglio e chi lo produce peggio, però generalmente l'aglianico secondo me come vitigno è un grande vino. E voglio tornare un secondo a Gianluca Bisol, ma tutta questa quantità di prosecco, siamo certi che poi la qualità mantenga uno standard diciamo eccellente? Beh, guarda, sicuramente quando parliamo di quantità ci si spaventa sempre, è inevitabile che venga il dubbio che si possa avere difficoltà a gestirla, però proviamo anche a immaginare a qualche altro prodotto internazionale che sta nelle nostre tavole e che ha con grande onore sta nelle nostre tavole, come lo champagne per esempio. Lo champagne produce 330 milioni di bottiglie e questo naturalmente in varie declinazioni, perché sappiamo che ci sono degli champagne entry level cosiddetti, di qualità magari, se vogliamo, per noi un po' più palati fini, discutibili, ma comunque sempre accettabili. E poi ci sono i grandi champagne, che sono delle cose che sicuramente danno delle gioie incredibili. Ecco, nel prosecco oggi si arriva totalmente tra DOC e DOCG a circa 270 milioni di bottiglie, quindi siamo ancora ben sotto i risultati dello champagne in un prodotto che ha ormai istituito una DOC e una DOCG che delimitano ben chiaramente la sua area di produzione e la regolamentano in maniera estremamente rigida, perché addirittura da quest'anno, da gennaio, anche il DOC avrà la fascetta numerata sulle bottiglie. Ecco quindi che questo mondo, che prima era totalmente indisciplinato, perché non possiamo nasconderci che il Prosecco abbia vissuto degli anni di grande confusione a livello produttivo, oggi è estremamente regolamentato e ha una piramide di qualità che garantisce il consumatore stesso, e quindi anche questi grandi numeri, che sono tra l'altro più gestibili rispetto al metodo di produzione dello champagne, possono, insieme alla regolamentazione e ai controlli, garantirci di avere un prodotto dignitoso, naturalmente per tutte le tasche e quindi anche a differenti livelli di qualità. Bene. Grazie, grazie a Gianluca Bisolo. Sentiamo Gianluigi da Perugia, un radioascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Stavo ascoltando con interesse, anche perché io sono un appassionato di vino. Sì. E quindi bisogna, la cosa che bisogna cercare più possibile, a mio parere, che le aziende di vinicoli... Guardi, purtroppo si sente malissimo, non so se lei è in macchina o dove, ma non riusciamo a capire la sua domanda. Grazie Gianluigi. E abbiamo poco tempo, quindi non le dico neppure di fermarsi e di richiamare, perché dobbiamo chiudere. Io volevo fare un discorso, cioè Prosecco Champagne che ha fatto oggi, che ha fatto ora Bisolo, insomma, teniamo le distanze, ci sono 200 anni di storia su quel prodotto ed è dominante nel mondo, quindi diciamo, prendiamo altri parametri, secondo me di confronto sarebbe molto meglio. Ma voglio leggere un sms davvero interessante. Da quando sono in cassa integrazione sono fedele al tavernello e devo dire che non fa proprio schifo. Questa Anna di Rivoli, grazie Anna di Rivoli. 30 secondi a Pietro Ratti. Ratti ha fatto delle distinzioni tra il Barolo e il resto degli altri vini, ho sentito. Ma il Barbaresco? Barbaresco anche, no, ma Barbaresco segue anche come il Barolo. Diciamo che il Barolo è fortemente venduto all'estero, noi vendiamo il 70% del vino all'estero, il Barbaresco il 50%, quindi questo riflette un po' forse anche tutte le altre denominazioni, no? Quelle denominazioni che vendono molto all'estero in questo momento vanno bene. Molto bene. Grazie a Pietro Ratti, abbiamo finito questo giro sul vino. Beh, devo dire che io sono molto contento, abbiamo sentito Isole Felici, soprattutto di infelici abbiamo sentito solamente i pagamenti che arrivano dalla ristorazione e dalla distribuzione. Bene, io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento la prossima settimana, ma domani con il riposo del guerriero e ogni giorno con le pillole. Grazie a Stefania Tagliaferri e a Roberto Scaltritti in regia. Buon weekend a tutti.